quel raggio di sole sta cadendo nel mare. Riportalo a me, ti prego, riportalo a me. Lui sa tutto di me, del mio sorriso, dei miei ricordi, della mia alba, del mio tramonto, del mio profumo di erba bagnata e del mio amore così grande e del mio mare tanto blu, del desiderio di averti vicino che mi fa male sempre di più. Mai via e che brillasse ancora per me.